10. Ferro battuto e oro. Il signor Thornton uscì di casa senza ritornare nella sala da pranzo. Era piuttosto in ritardo e si incamminò velocemente verso Crampton. Era preoccupato di offendere il suo nuovo amico con una irrispettosa mancanza di puntualità. L'orologio della chiesa batté le 7:30 mentre era sulla porta in attesa degli strascicati passi di Dixon, doppiamente lenta quando doveva abbassarsi ad andare ad aprire. Venne accompagnato nel piccolo soggiorno e accolto con gentilezza dal signor Hale, che lo condusse di sopra, da sua moglie, il cui viso pallido e il corpo avvolto in scialli giustificavano in silenzio la fredda apatia della sua accoglienza. Quando entrò, Margaret stava accendendo la lampada, dato che si stava facendo buio. La lampada proiettava una bella luce al centro della stanza scura, dalla quale, mantenendo le abitudini di campagna, la famiglia non bandiva il cielo e l'aria notturni. In qualche modo, la stanza era in contrasto con quella che aveva appena lasciato, elegante, massiccia, senza alcun segno di femminilità, tranne che nel punto in cui sua madre sedeva, e senza alcuna comodità per attività diverse da quella del mangiare e del bere. Certo, era una sala da pranzo. Sua madre prediligeva stare seduta lì e la sua volontà era legge in casa, ma quella sala da pranzo non era come questa. Era 2 volte, 20 volte più bella, ma non così accogliente. Qui non c'erano specchi, nemmeno un frammento di vetro che riflettesse la luce e che avesse lo stesso scopo che all'acqua in un paesaggio. Niente oro, tanti colori sobri e caldi, ben attenuati dalle tende di chintz e dal rivestimento delle poltrone della cara vecchia Helston. Sulla finestra, di fronte alla porta, c'era una scrivania a ribalta aperta. Dall'altra parte della stanza c'era un tavolino con un alto vaso di porcellana, dal quale cascavano ghirlande di edera inglese, betulla verde chiaro e foglie di fagio color rame. Graziosi cestini da lavoro si trovavano qua e là, e i libri, scelti non soltanto per la rilegatura, erano sul tavolo come appena posati. Dietro la porta c'era un altro tavolo imbandito per il tè, con una tovaglia bianca dove facevano bella mostra di sé i dolcetti al cocco e un cesto pieno di arance e mele americane rosse disposte su un letto di foglie. Al signor Thornton sembrò che tutte queste delicate attenzioni domestiche fossero una consuetudine in quella famiglia e soprattutto corrispondessero a Margaret. Lei stava in piedi accanto al tavolino del tè, nel suo abito di mussolina dai colori tenui sui quali spiccava il rosa. Pareva non prendere parte alla conversazione, occupandosi esclusivamente di versare il tè nelle tazze, tra le quali le sue morbide mani color avorio si muovevano con leggiadra delicatezza, senza fare rumore. Indossava un braccialetto sul braccio affusolato, che le cadeva giù sul polso ben tornito. Il signor Thornton era più attento a osservare lei, che rimetteva al posto questo fastidioso ornamento, che ad ascoltare suo padre. Sembrava affascinarlo, guardare come lo spingeva su con impazienza finché non stringeva, e poi notare attentamente come si allentava e cadeva. Avrebbe quasi potuto esclamare: «Ci risiamo!» Dopo il suo arrivo c'era rimasto così poco da fare per preparare il tè che ne fu piuttosto dispiaciuto, poiché il momento di mangiare e bere arrivò troppo presto a privarlo del piacere di guardare Margaret. Lei gli porse il suo tè con l'aria orgogliosa di un'indocile schiava, ma i suoi occhi colsero il momento in cui era pronto per un'altra tazza, ed egli quasi desiderò chiederle di fare anche per lui quello che le vide fare per il padre, il quale afferrò il mignolo e il pollice della figlia con la sua mano da uomo e li usò come pinzette per lo zucchero. E il signor Thornton vide i suoi bellissimi occhi che guardavano il padre pieni di luce, per metà divertiti e per metà amorevoli, come se questa piccola pantomima andasse avanti tra loro senza essere vista, come credevano, da nessuno. A Margaret faceva ancora male la testa, come testimoniavano il suo incarnato pallido e il suo silenzio, ma era decisa a lanciarsi nella conversazione nel caso di una pausa troppo lunga, per evitare che l'amico, alunno e ospite di suo padre potesse avere ragione di sentirsi in qualche modo trascurato. Ma lo scambio proseguì e Margaret si spostò in un angolo vicino alla madre con il suo cucito, dopo che il servizio da te venne portato via, e sentì che avrebbe potuto lasciar vagare i suoi pensieri senza la paura di essere improvvisamente chiamata a riempire un vuoto. Il signor Thornton e il signor Hale erano entrambi assorti nel prosieguo di una conversazione iniziata durante il loro ultimo incontro. Margaret venne richiamata alla realtà da alcuni banali commenti che la madre fece sottovoce e, sollevando improvvisamente lo sguardo dal suo ricamo, i suoi occhi furono catturati dalla diversità di aspetto tra il padre e il signor Thornton, che sembrava suggerire due nature chiaramente opposte. Suo padre aveva una figura slanciata che lo faceva sembrare più alto di quello che era in realtà, quando non fosse opposta, come in quel momento, alla corporatura alta e massiccia di un altro. I lineamenti del padre, delicati e fluidi come onde, rivelavano le diverse emozioni che si inseguivano sul suo viso. Le ciglia erano lunghe e ricurve e conferivano agli occhi una particolare languida bellezza quasi femminile. Le sopracciglia erano ben arcuate, ma per l'ampiezza delle morbide palpebre erano a una certa distanza dagli occhi. Invece, le sopracciglia dritte sul volto del signor Thornton cadevano sugli occhi chiari, incavati e seri, che senza essere sgradevolmente insistenti sembravano in grado di arrivare al cuore, all'essenza di quello che stavano osservando. Le rughe del viso erano poche, eppure marcate, come se fossero scolpite nel marmo, e si trovavano soprattutto intorno alle labbra, che si stendevano leggermente su una fila di denti belli e perfetti, che aveva come l'effetto di un improvviso raggio di sole quando un raro sorriso luminoso, che in un istante arrivava e traspariva dai suoi occhi, mutava completamente la sua espressione da quella severa e risoluta di un uomo pronto ad agire e ad affrontare qualsiasi situazione, a quella entusiasta e sincera di chi si gode il momento, che soltanto i bambini mostrano senza timore né esitazione. A Margaret piacque quel sorriso. Fu la prima cosa che apprezzò del nuovo amico del padre, e un carattere opposto che la giovane colse da tutti quei particolari dell'aspetto era in grado di motivare l'evidente attrazione che provavano l'uno per l'altro. Sistemò il lavoro a maglia della madre, ripiombò nei suoi pensieri. Il signor Thornton si era completamente dimenticato di lei, come se non fosse stata nella stanza, perché era tutto assorto a spiegare al signor Hale la magnifica potenza, nonostante il fine meccanismo, della forza del maglio a vapore che ricordava al suo precettore alcune delle fantastiche storie del servile genio delle Mille e una Notte, che un attimo prima si estende dalla terra al cielo riempiendo la grande vastità dell'orizzonte e un attimo dopo si comprime obbediente dentro un vaso così piccolo da stare tra le mani di un bambino. È questa intuizione di forza, questa concreta realizzazione di un pensiero così grandioso, è scaturita dalla mente di un uomo della nostra beniamata città. Proprio quest'uomo ha avuto in sé la capacità di superare, passo dopo passo, ogni prodigio realizzato con meraviglie ancora più strabilianti. E, ve lo garantisco, molti di noi, se lui se ne andasse, potrebbero buttarsi nella mischia e battersi per costringere, adesso e in futuro, tutta la resistenza della materia a inchinarsi alla scienza. Il vostro vanto mi ricorda gli antichi versi «Ho 100 capitani in Inghilterra», disse, «e ognuno bravo quanto lui». All'udire la citazione del padre, Margaret alzò subito lo sguardo con inquisitoria sorpresa nei suoi occhi, come avevano mai fatto dalle ruote dentate ad arrivare alle ballate di Chevy Chase. «Non mi sto vantando», rispose il signor Thornton. È un semplice dato di fatto, non nego che sono orgoglioso di appartenere a una città, o forse farei meglio a dire a un distretto, i cui bisogni danno vita a idee così grandiose. Preferirei essere un uomo che sgobba, che soffre, anzi un perdente e senza successo, qui, che condurre la vita prospera e piatta, schiava di vecchie abitudini consumate, di quella che definite una società più aristocratica giù al sud, con le sue tranquille giornate lente e spensierate. Forse qualcuno è talmente bloccato dal miele che non riesce ad alzarsi e a spiccare il volo. Siete in errore, disse Margaret, provocata dalla denigrazione del suo amato Sud, per difenderlo con una passione devota che portò colore sulle sue guance e lacrime di rabbia ai suoi occhi. Non sapete nulla del Sud. Se c'è meno avventura o meno progresso, suppongo di non dover dire meno eccitazione, dello spirito speculativo del commercio che pare necessario per tirare fuori queste meravigliose invenzioni, c'è anche meno sofferenza. Io qui vedo uomini e donne che camminano per le strade e sembrano oppresse, oppressi da qualche dolore che li tortura o dalle preoccupazioni. Non solo sono persone che soffrono, sono persone che covano odio. Ora, al sud abbiamo i nostri poveri, ma non c'è sui loro volti quell'orrenda espressione di amaro senso di ingiustizia che vedo qui. Non conoscete il sud, signor Thornton, concluse, sprofondando in un silenzio risoluto e arrabbiandosi con se stessa per aver parlato troppo. E posso dire che voi non conoscete il nord? Chiese lui, con un tono di inesprimibile dolcezza, poiché si accorse che l'aveva davvero ferita. Lei perseverò con determinazione nel suo silenzio, struggendosi al pensiero dei bei luoghi che aveva lasciato lontano nel Hampshire, con un'intensa nostalgia che le fece capire che la sua voce sarebbe stata insicura e tremula se avesse parlato. Ad ogni modo, signor Thornton, disse la signora Hale, ammetterete che Milton sia una città molto più fumosa e sporca delle città che si incontrano al sud. Temo di dovervi concedere che non è pulita, disse il signor Thornton con il suo rapido, brillante sorriso, ma siamo costretti dal Parlamento a bruciare il nostro fumo. E quindi, suppongo che come i bravi bambini dobbiamo fare quello che ci viene detto qualche volta. Nota, qui l'autrice si riferisce probabilmente a un atto parlamentare emanato il 20 agosto 1853, l'Abatement Act, che imponeva alle fabbriche di ridurre al minimo la produzione di fumo per l'eccessivo inquinamento dell'aria. Ma se non sbaglio mi avete detto di aver modificato le vostre ciminiere in modo da ridurre il fumo, giusto? Chiese il signor Hale. Le mie le ho modificate per mia volontà, prima che il Parlamento si immischiasse nella faccenda. La spesa l'ho sostenuta subito, ma mi ripaga facendomi risparmiare carbone. Se avessi atteso il passaggio dell'atto, non sono sicuro che avrei dovuto farlo. A ogni modo, avrei dovuto aspettare di essere denunciato e multato e di incontrare problemi nel dimostrare che avevo agito legalmente, ma ogni legge che per essere applicata dipende da denunce e multe diventa inefficace per l'odiosità del sistema. Dubito che abbiano segnalato una sola ciminiera a Milton negli ultimi 5 anni, nonostante alcune continuino a buttar fuori un terzo del loro carbone in quello che qui chiamiamo fumo non parlamentare. So solo che qui è impossibile tenere pulite le tende di Mussolina per una settimana intera e che a Helston le lasciavamo su per un mese o più e che comunque non sembravano sporche alla fine. E quanto alle mani, Margaret, quante volte ti sarai lavata le mani stamattina prima di mezzogiorno? 3 volte, giusto? Sì, mamma. Sembrate nutrire forti obiezioni per gli atti del Parlamento e per tutte le leggi che riguardano il vostro modo di amministrare qui a Milton, disse il signor Hale. Sì, è vero. Vale lo stesso per molti altri, e giustamente, credo. L'intero meccanismo, non intendo le macchine di legno e di ferro, del commercio del cotone è così nuovo che non c'è da meravigliarsi se non sempre l'ingranaggio di ogni sua parte funziona correttamente. Ma com'era 70 anni fa? E com'è cambiata la situazione al giorno d'oggi? Materiali greggi si sono uniti. Uomini dello stesso livello, quanto a istruzione e posizione, improvvisamente hanno assunto i ruoli differenti di padrone e operaio a seconda del buon senso. Per quanto riguarda opportunità e probabilità, che ha distinto alcuni e li ha resi lungimiranti su quale grande futuro si nascondesse in quel primitivo modello di Sir Richard Arkwright, l'inventore del primo filatoio meccanico. Il rapido sviluppo di quello che può essere chiamato un nuovo mercato ha dato ai primi proprietari un enorme benessere e potere di controllo. Non intendo soltanto sugli operai, intendo sui compratori, su tutto il mercato mondiale. perché potrei farvi l'esempio di un annuncio pubblicato meno di 50 anni fa su un giornale di Milton che un tal dei tali, uno di quei pochi stampatori di Calicò dell'epoca, chiudeva il suo magazzino ogni giorno a mezzogiorno e quindi tutti gli acquirenti dovevano presentarsi prima di quell'ora. Immaginatevi un uomo che impone in questo modo l'orario di vendita e di chiusura. Ora io ritengo che se un buon cliente decidesse di venire a mezzanotte, dovrei alzarmi e stare in piedi col cappello in mano a prendere gli ordini. Le labbra di Margaret si curvarono in una smorfia, ma in un modo o nell'altro si trovò costretta ad ascoltare, non riusciva più ad astrarsi nei suoi pensieri. Vi racconto queste cose soltanto per mostrarvi che potere quasi illimitato ebbero gli industriali verso gli inizi di questo secolo. Gli uomini erano annebbiati dal potere. Un uomo poteva avere successo nelle sue imprese, ma questo non implicava che la sua mente fosse equilibrata in tutto il resto. Al contrario, il suo senso della giustizia e la sua semplicità venivano spesso completamente soffocate dall'eccesso di ricchezza che gli piombava addosso. E si raccontavano storie strane sulla vita stravagante e sregolata alla quale quei primi signori del cotone, già dal 1769, quando fu inventato il primo filatoio meccanico, si abbandonavano nei giorni di festa. Non può esserci alcun dubbio, inoltre, sulla tirannia che esercitavano sui loro operai. Conoscete il proverbio, signor Hale, metti un povero a cavallo e cavalcherà fino all'inferno. Beh, alcuni di questi primi industriali cavalcarono davvero fino all'inferno in grande stile, frantumando carne e ossa umane sotto gli zoccoli dei loro cavalli senza provare alcun rimorso. Ma col tempo è arrivata una reazione. Più erano le fabbriche, più erano i padroni, più gli uomini che erano necessari. Il potere dei padroni e degli operai diventò persino più equilibrato e adesso la lotta fra noi è combattuta in maniera piuttosto equa. Difficilmente ci sottometteremo alla decisione di un arbitro, ancora meno all'intromissione di un ficcanaso, che ha solo un'infarinatura delle reali circostanze del caso, sebbene quel ficcanaso venga chiamato alta corte del Parlamento. È necessario chiamarla lotta tra le due classi? Domandò il signor Hale. Capisco da come la usate che l'espressione è l'unica a rendere perfettamente l'idea di come stanno realmente le cose nella vostra testa. Sì. È vero, e la ritengo inevitabile, tanto quanto il fatto che la saggia prudenza e la buona condotta sono sempre in opposizione in lotta con l'ignoranza e l'imprudenza. È una delle cose meravigliose del nostro sistema che un operaio possa raggiungere il potere e la posizione di un padrone con i suoi sforzi e con la sua condotta, che di fatto chiunque agisca secondo le leggi della sobrietà e della decenza e svolga bene le sue mansioni, possa salire ai nostri ranghi. Magari non sempre arriva a essere un padrone, ma un supervisore, un cassiere, un contabile, un impiegato, in sostanza uno che sta dalla parte dell'autorità e del comando. Quindi considerate vostri nemici tutti coloro che per una qualsiasi ragione non riescono ad avere successo nel mondo, se ho capito bene, disse Margaret con voce chiara e fredda. Come nemici di se stessi, certamente, rispose lui rapidamente, per nulla offeso dal suo modo di esprimersi e dal suo tono sprezzante e altezzoso. Tuttavia, subito dopo, la sua schietta onestà gli fece percepire che la risposta a quello che lei aveva detto era soltanto povera e insoddisfacente. Inoltre, per quanto sprezzante lei potesse essere, era un dovere verso se stesso spiegare con la massima sincerità che cosa voleva dire. Eppure era molto difficile differenziare l'interpretazione che lei aveva dato e tenerla separata da quello che lui intendeva. Avrebbe potuto spiegarsi al meglio raccontando qualcosa della sua vita, ma non era forse un argomento troppo personale per parlarne con degli estranei. Tuttavia, quello era il modo semplice e onesto di spiegare quel che intendeva, quindi, mettendo da parte quella punta di timidezza che lo fece per un momento arrossire sulle guance scure, disse: Non parlo senza esperienza. 16 anni fa mio padre morì in circostanze molto miserevoli. Mi tolsero dalla scuola e fui costretto a diventare un uomo, per quanto mi è stato possibile, in pochi giorni. Avevo una madre che pochi hanno il dono di avere, una donna di grande vigore e di ferma determinazione. Andammo in una piccola cittadina di campagna dove la vita costava meno che a Milton e dove fui assunto in un negozio di tessuti. Un posto eccezionale, tra l'altro, per imparare a conoscere la merce. Le nostre entrate ammontavano a 15 scellini la settimana, che dovevano servire a mantenere 3 persone. Mia madre li amministrava di modo che ne mettessi da parte 3 regolarmente. Questo fu l'inizio, questo mi insegnò il sacrificio. E adesso che sono in grado di dare a mia madre quelle comodità che la sua età, più che i suoi desideri, richiede, la ringrazio in silenzio ad ogni occasione per quel primo insegnamento che mi ha dato. Adesso, quando ragiono sul fatto che nel mio caso non è stata la buona sorte né il merito né il talento, ma semplicemente i casi della vita che mi hanno insegnato a disprezzare i piaceri non completamente meritati, in verità senza pensarci 2 volte, ritengo che questa sofferenza, che secondo la signorina Hale è impressa sul volto dell'agente di Milton, non sia altro che la naturale punizione per un illecito piacere goduto in un qualche momento del loro passato. Non voglio dire che le persone materiali e indulgenti con se stesse meritino il mio odio, li considero semplicemente con disprezzo per la loro mancanza di carattere. Ma voi avete avuto le prime nozioni di una buona istruzione, rimarcò il signor Hale. Il grande entusiasmo con cui ora state leggendo Omero mi dimostra che non è per voi un libro sconosciuto. Lo avete letto prima e state soltanto richiamando alla mente il vostro antico sapere. Questo è vero. A scuola mi sono arrangiato a leggerlo meglio che potevo. Devo ammettere che ero persino considerato uno abbastanza esperto di classici all'epoca, sebbene il latino e il greco sin da allora li abbia dimenticati, ma vi chiedo quale preparazione potevano darmi per una vita come quella che ho dovuto fare. Nessuna, proprio nessuna. Per quanto riguarda l'istruzione, apprezzo le conoscenze che possiede. Chiunque sappia solo leggere e scrivere, che sono quelle che io stesso avevo allora. Beh, non sono d'accordo con voi, ma forse sono un po' pignolo in questo. Non vi ha dato coraggio il ricordo della semplicità eroica della vita celebrata in Omero? Affatto! Esclamò il signor Thornton ridendo. Non avevo tempo per pensare ai morti, ero troppo occupato con i vivi che mi stavano addosso nella lotta per il pane. Adesso che mia madre è al sicuro in quella pacifica tranquillità che si addice alla sua età e che ripaga debitamente i suoi sforzi precedenti, posso ritornare a quell'antico racconto e godermelo pienamente. Suppongo che il mio commento sia dipeso dalla professione che svolgo, perché secondo me non esistono suggerimenti migliori, rispose il signor Hale. Quando il signor Thornton si alzò per andarsene, dopo aver stretto la mano del signore e della signora Hale, si avvicinò a Margaret per salutarla allo stesso modo. Era la consuetudine aperta e confidenziale del luogo, ma Margaret non era preparata. Fece un semplice inchino in segno di saluto, sebbene, nell'istante in cui vide quella mano tesa per metà e rapidamente ritratta, fu dispiaciuta per non aver colto l'intenzione. Tuttavia, il signor Thornton non aveva capito nulla del suo dispiacere. E sollevandosi in tutta la sua altezza, se ne andò, borbottando mentre lasciava la casa. Non ho mai visto una ragazza più altezzosa e antipatica. I suoi modi sprezzanti fanno persino dimenticare quanto sia bella.